Storie italiane. Principe Milan. C'era una volta, in un regno lontano, un re con la barba così lunga che gli arrivava ai piedi. Era il potente re Caiota e il suo regno attraversava 5 fiumi e 3 foreste. Il re desiderava visitare ogni centimetro delle sue terre e dei suoi fiumi e vedere di persona che tutto andava bene. Quindi viaggiò per un anno negli angoli più remoti del suo regno e quando fu certo che tutto andasse davvero bene, iniziò a tornare a casa. In uno di questi giorni afosi, il sole oggi è crudele. Se viaggiamo a mezzogiorno non andremo lontano. Quindi accampiamoci qui un paio d'ore finché non sarà un po' più fresco e poi riprenderemo il nostro viaggio. All'improvviso il re fu consumato da una sete così forte che pensò che sarebbe morto se non avesse bevuto un bicchiere d'acqua. Quindi montò sul suo cavallo per cercare un fiume o un lago o altro. Cercò a lungo e arrivò ad un lago con l'acqua più blu che mai e scintillante come cristallo. Il re era così consumato dalla sete che si sdraiò a terra e beve l'acqua come avrebbe fatto un gatto. E dopo essersi riempito, il re cercò di alzarsi, ma qualcosa gli stava tenendo la barba. Vide un'enorme faccia verde che lo guardava da sotto l'acqua. Lasciami andare, altrimenti dovrei pagare un caro prezzo. Nessuna delle tue minacce funzionerà con me, perché qui sott'acqua è il mio mondo. Ma posso lasciarti andare a una condizione. Quale? Dovrei darmi la cosa più preziosa che hai nel tuo palazzo adesso, di cui ancora non sai niente. Bene, lo prometto. A questo punto, il mostro lasciò andare la barba del re e lo liberò. Alla fine, il re raggiunse il suo palazzo e fu accolto con molta pomposità e gioia. La sua regina lo stava aspettando alle porte del palazzo. Ah, mio caro, guarda con cosa ci hanno benedetti gli angeli mentre eri via. Nostro figlio, il principe di questo regno. Dovrai darmi la cosa più preziosa che hai nel tuo palazzo adesso, di cui ancora non sai niente. Quindi questo è quello che il mostro aveva in mente. Lui vuole mio figlio. Cosa succede, caro? Non sei felice di vedere nostro figlio? Oh, mia cara, sono felicissimo. Sono così sopraffatto che non so cosa dire. Figlio mio, il principe di questo regno. Il re non poté dormire per molte notti per paura che il mostro portasse via il suo adorato figlio. Fece sì che suo figlio fosse ben protetto in ogni momento. Ma il tempo passò e il principe crebbe fino a diventare un giovane coraggioso e saggio, interessato in molte arti, diverse dalle armi. E il re dimenticò completamente la sua paura del mostro. Ma un giorno, mentre il principe era fuori nella foresta, decise di separarsi dai suoi compagni per esplorare un po' in giro. Ah, principe Milan, figlio del potente re Caiota. Ti conosco, signore? No, ma tuo padre mi conosce. Digli che mi hai incontrato e che sto ancora aspettando che mantenga la sua promessa. Ci rivedremo, figliolo. Fino ad allora, arrivederci. Il principe parlò al re dello strano visitatore e il re non ebbe altra scelta che raccontare alla sua famiglia della promessa che aveva fatto al mostro anni prima, senza sapere che il mostro voleva suo figlio. Ascoltando la storia, padre, una promessa è una promessa e deve essere mantenuta. Andrò io stesso dal mostro verde. Ma figliolo, la promessa era ingiusta. È questo un prezzo da pagare per qualche sorso d'acqua? Qualunque sia, madre, una volta fatta una promessa, deve essere mantenuta. E le cose non vanno mai così male come sembrano. Troverò sicuramente un modo per tornare da voi, ma lasciatemi andare ora. Il re e la regina sapevano che il principe aveva ragione e con riluttanza lo mandarono nella foresta, al lago del mostro verde. Quando il principe arrivò al lago, vide 10 anatre nuotare al suo interno e 10 piccoli indumenti appoggiati a riva. Il principe si nascose dietro ad un albero. Una ad una le anatre uscirono ed indossarono un abito. Si trasformarono immediatamente in bellissime fanciulle e se ne andarono. Rimase solo l'ultima fanciulla. Chi si sta nascondendo dietro l'albero? Mi dispiace, mia signora. Quando vi ho viste tutte in acqua, non sapevo cosa fare. Cosa ti porta qui, principe Milan? Se conosci il mio nome, allora devi conoscere la promessa che mio padre ha fatto molto tempo fa al sovrano del mondo sotto il lago. Il sovrano è mio padre? Sono la principessa Aicinzia. Sono la sua figlia più giovane. Beh, credo che fosse un prezzo troppo alto per qualche sorso d'acqua. Ma vieni con me, ti porterò da mio padre. Quindi la principessa Aicinzia toccò tre volte il terreno e il principe e la principessa si ritrovarono in un magnifico palazzo davanti al mostro verde. Ecco, finalmente sei qui, principe Milan. Sì, vostra altezza, sono qui per rispettare la promessa che mio padre ti ha fatto tanto tempo fa. Finalmente! Bene, stasera potrai riposare. Ma domani dovrei farmi un palazzo d'oro con 100 camere e un giardino con 1000 fiori. Se non lo farai, la testa ti cadrà dal collo. Perché aspettare fino a domani, vostra altezza? Questo compito è impossibile per me. Non so come costruire un castello e tantomeno uno d'oro. Domani avrai tutto il giorno. Troverai un modo. Il principe si sedette nella sua camera pensando a cosa fare. Tale impresa può essere completata solo con la magia. Oh. Sì, hai bisogno di magia per costruire il castello. Dormi, principe. Il palazzo sarà pronto in pochissimo tempo usando la magia. No, principessa. Sarebbe come barare. La sfida è stata lanciata per me e devo completarla in modo leale. Ma mio padre ha chiesto a tuo padre di lasciarti andare per qualche sorso d'acqua. Non è giusto. Ma in tutti questi anni tuo padre non mi ha mai fatto del male. E se anche tuo padre fosse stato ingiusto, io non imbroglierò. Se vuoi davvero aiutarmi, potresti farmi un favore? Qualunque cosa tu dica. Quindi il principe chiese alla principessa di portargli qualcosa e la mattina dopo andò con fiducia davanti al mostro. Allora hai fatto il palazzo? Oh sì, altezza, eccolo! Che cosa? Mi ha chiesto di farle un palazzo d'oro con un centinaio di camere e migliaia di fiori. Bene, può contare il numero di stanze e fiori qui, sire. Non ha mai specificato che voleva che lo costruissi sulla terra, quindi l'ho costruito su una tela. Tutto qui. È molto intelligente da parte tua, principe Milan. Devo ammetterlo, hai ragione. Bene, fammi solo un'altra cosa e ti lascerò tornare da tuo padre. Farò del mio meglio, sire. Bene, ecco un pezzo di diamante. È nella mia mano. Se riuscirai a prenderlo da me entro la mattina, sarai libero di andare. Altrimenti, la testa ti rotolerà dal collo. Quella notte, il principe Milan si chiese ancora una volta come prendere il diamante dalla mano del mostro. Bussarono di nuovo alla sua finestra. Stasera avrai sicuramente bisogno di magia per svolgere il compito. Dammi il permesso. E prenderò il diamante per te immediatamente. No, principessa. Questo sarebbe come barare. Grazie per l'aiuto. Ma ciò che mio padre ti ha chiesto è ingiusto. Lascia che sia così, ma io non imbroglierò. Potresti comunque aiutarmi se lo desideri. Porteresti una cosa? Qualsiasi cosa tu dica. Il mattino seguente, il principe andò alla corte del mostro. Scosso e sicuro di morire. Guarda qui, principe Milan, il diamante è ancora con me. Non hai concluso questo compito. Concordo, vostra altezza, e accetto la sconfitta. Bene, allora la testa dovrà rotolare giù dal collo. Sei pronto? Sì, Altezza, ma prima che la mia testa rotoli dal collo, posso esprimere un desiderio? Perché sarei d'accordo, Sire, che ho giocato in modo onesto e leale. D'accordo, ti concedo un desiderio. Puoi chiedere qualsiasi cosa tranne il diamante dalla mia mano. Vorrei che mi rotolasse la testa dal collo, ma da qui e non qui. Poiché questa figura è una mia replica, questo collo e questa testa sono anche miei. E hai detto solo che la mia testa mi rotolerà dal collo, ma non è mai stato detto che dovrò morire. Bene, è intelligente da parte tua, principe Milan. Molto bene, hai rispettato la tua promessa e io manterrò la mia. Puoi andare a casa. Di a tuo padre che ha un figlio eccellente, che è saggio e intelligente e che non si è lasciato tentare. Tentare? Mio padre mi ha chiesto di esortarti ad imbrogliare solo per vedere se avresti ceduto. Ma non l'hai fatto! Hai mantenuto la calma e il tuo ingegno e hai vinto onestamente e lealmente. Per questo ti meriti di vivere e governare il tuo regno. Questo significa, Vostra Altezza, che ora siamo tutti amici? Amici! Di a tuo padre che non ha nulla da temere da parte mia e che sarò tuo amico per sempre! E se entrambi siete d'accordo, vorrei che mia figlia ti sposasse. Saresti un buon marito per lei! Perdonami, ho detto qualcosa che non va? Ah? No, no, accettiamo di sposarci! E quindi il principe tornò nel suo regno, i due nemici divennero amici e il principe e Aicinzia vissero felici e contenti.